известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Is there any flexibility on this August deadline? Well, I want to keep the pressure on because we're making steady progress. People are working hard. I won't sign a bill that I think does not reduce costs, does not keep deficit neutral and does not benefit. Insomma, Obama è in difficoltà e stasera va in televisione in tutta America a reti unificate a dare il segno del suo imbarazzo, ma anche a dare a offrire spiegazioni e naturalmente sostegno alle proprie tesi, soprattutto quelle che riguardano la questione della riforma della sanità e quella accelerazione che sta provando a produrre su questa riforma, che garantirebbe, estenderebbe la copertura medica a 46 milioni di americani che oggi attualmente ne sono sprovvisti, ma al tempo stesso aprirebbe anche un nuovo fronte di copertura economica che una America preoccupata e anche un po' squattrinata come quella di oggi difficilmente riesce a supportare senza, se non altro, capirne di più. Tante altre sono le questioni su cui Obama in queste ore, in questi ultimi giorni sta incontrando difficoltà. C'è la questione della problematica chiusura di Guantanamo, c'è la questione sicuramente tutta emotiva di quel soldato americano prigioniero dei talebani, che cominciano a recapitare i famosi filmati in cui un ragazzo, l'abbiamo fatto anche ascoltare senza magari insistere troppo, in cui un giovane dice: ho paura, vorrei tornare a casa, non ho capito il senso di questa guerra, vorrei rivedere i miei genitori. Tutte cose che una sopra l'altra messe insieme contribuiscono a questo spiazzamento, slittamento psicologico della nazione americana di queste ore, che non a caso ha dato a Barack Obama delle risposte per la prima volta piuttosto contraddittorie, certamente non più schierate, non più in formato coro, no? Coro di approvazione come ci aveva abituato l'attuale presidente americano, a cavallo insomma della sua straordinaria ascesa fino alla Casa Bianca. È calato l'indice di approvazione del presidente al 55%, arriva un nuovo sondaggio della Associated Press, fresco di numeri, e ribadisce l'impressione che secondo gli americani Obama stia facendo, voglia fare troppe cose tutte insieme e con eccessiva fretta, e che stanno crescendo dubbi sugli effettivi risultati che la sua amministrazione riuscirà a raggiungere a fronte di mosse estremamente importanti dal punto di vista, per esempio, della portata economica. Il primo stimolo economico ne è un caso, anche se poi i dati che cominciano ad arrivare nelle indagini che provano a vedere dove finiscono o dove finiscano questi soldi dello stimolo economico approvato da Barack Obama e dal suo governo sono anch'essi contraddittori, sembrerebbero rivoli di spesa spesso ingiustificati, soprattutto molti soldi ancora che non hanno trovato una giusta collocazione. Comunque le difficoltà riguardano soprattutto le politiche dell'amministrazione, non Obama in quanto personaggio, se è vero che il 69% degli americani, una percentuale quasi bulgara, insomma, continua a ritenerlo un leader forte, contro però il 78% del periodo precedente all'inaugurazione. Per due terzi dell'elettorato il presidente capisce i problemi degli americani, ma a novembre era l'81% a pensare la stessa cosa. E non è solo Obama ad avvertire il logorio della realtà, l'indice di approvazione anche del Congresso è sceso, continua a scendere, ma quello è un indice che, devo dire, non ha mai avuto molta fortuna. Siamo al 32% ed è un numero sinceramente piuttosto preoccupante. Vi dicevamo dunque che Barack Obama ha deciso di andare in televisione a reti unificate e lo farà stasera. L'orario previsto erano le 9, è l'ora che di solito lo staff della Casa Bianca richiede ai grandi network per radunare il massimo di audience possibile, perché a quell'ora sia su una costa che sull'altra, bene o male, gli americani sono a casa. Naturalmente sulla costa orientale hanno già mangiato, sono già davanti al televisore, 3 ore di differenza, sulla costa orientale sono comunque arrivati a casa, magari non è ancora tempo di mettersi a tavola, e Obama avrebbe voluto parlare a tutti gli americani, invece manco per niente, lo farà un'ora prima. E lo sapete perché? Perché gli americani, stanchi, piegati, preoccupati, un po' imbarazzati da questa situazione critica che non vuole andare via, hanno come tirato un sospiro. È tutto virtuale naturalmente, in realtà è semplicemente una rete televisiva che lo ha deciso, ma ha detto: senti Barack, per cortesia puoi anticipare un'oretta, perché con i tuoi ragionamenti, le tue lucubrazioni, con le quali torneremo tra pochissimo, perché noi alle 9 avremmo da fare un'altra cosa. How old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. Like, what are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. I dreamed a dream in time gone by. Appunto, l'abbiamo fatta risentire, no? Riascoltare quella ormai leggendaria performance della signora 47, forse 48enne, Susan Boyle, da Blackburn, Scozia, quando si presentò a un talent show britannico con l'aspetto più improbabile, no? Vestita con una specie di tenda, con un look devastante, e insomma anche dal punto di vista estetico non una attrazione straordinaria, fuori età, fuori contesto, fuori luogo, e letteralmente rovesciò il teatro, l'entusiasmo e poi l'intera platea, non solo televisiva americana. Si chiama Susan Boyle, è il vero caso nuovo, soprattutto perché è imprevedibile, incontrollabile, nessuno poteva profetizzare che questa signora, che sembra presa da un film del realismo britannico anni 50-60, potesse diventare una star assoluta e soprattutto un simbolo, un'icona, no? un esempio imitabile. Ebbene, Susan Boyle alle 9 di stasera sbarca in oltreoceano, negli Stati Uniti. Gli americani vogliono vedere, ci dispiace per Barack Obama, ma vogliono vedere Susan. Perciò Barack Obama si deve accomodare un'ora prima, in fondo parla spesso agli americani, no? Se l'è un po' preso ormai di diritto quel prime time, quando sente il bisogno di comunicare, ed è giusto così, è interessante, è anche una logica di gestione di un potere come quello presidenziale, assai contemporaneo. Si usa la televisione per qualcosa in più, no? Spiegare a una popolazione, spiegare ai propri concittadini qual è il progetto, cercare di approfondire, di esprimere. Però poi di tanto in tanto, ci dispiace, ma lo show business, la celebrità, la voglia di sognare prende il sopravvento, per cui stasera Obama non proprio in prime time su NBC ci va Susan Boyle, racconterà la sua vera storia. Abbiamo visto delle immagini dello spettacolo a cui assisteranno, questo special a cui assisteranno gli americani, che serve peraltro a sostenere la versione statunitense di America's Got Talent, di questo talent show che non sta andando bene in America come in Gran Bretagna. E la notizia, così tanto per dirla, è che hanno dato a Susan una bella piallata, se me la passate, insomma, l'hanno sistemata, l'hanno ripulita, non so, dite un po' come volete, le hanno tolto quell'aria così ruvida, ruspante, ma anche straordinariamente destabilizzante vista dentro uno schermo dei suoi esordi. Adesso è una signora di una certa età, piuttosto elegante, ormai ha fatto anche credo una dieta dimagrante, molto truccata, troppo truccata. Io ci andrei molto più piano, la metterei lì così com'è, perché lì c'è tutta la sua forza, una forza che questa sera Barack Obama invidierà dunque a un personaggio che del resto, come lui, no, condivide con lui il fatto di venire dalla speranza, di venire dalle probabilità più basse, più irrisorie, e arrivare invece a risultati straordinari. C'è anche in più una intervista di cui vogliamo parlarvi, che è stata pubblicata da Newsweek oggi. È un'intervista fatta a Mitt Romney, che è stato un deludente ma interessante candidato repubblicano alla presidenza, alle primarie repubblicane per la presidenza 2008, come ricorderete alla fine è stato battuto da McCain, nonostante da tanti fosse considerato il candidato tutto sommato più equilibrato e anche più credibile, e a posteriori si può aggiungere anche certamente il più esperto di cosa economica, sulla quale invece McCain non ha mai brillato, non brilla tuttora. Le speranze di Romney sono finite male per una vasta serie di motivazioni, ci riproverà, è assai probabile. Intanto ha rilasciato una intervista molto equilibrata a Newsweek attorno al momento di difficoltà di Barack Obama, e in particolare alla questione di sanità. Ha dato dei consigli, anzi, per carità, modestamente dice, non è che voglio consigliare sul da farsi il presidente, posso solo giudicare da politico quale sono, partecipante al governo della cosa americana, i miei punti di vista su come sta andando, e se volete proprio sapere il mio parere, secondo me Barack Obama sta andando troppo in fretta, dovrebbe rallentare, slow down, e questo è il consiglio che Romney rivolge a Barack Obama. Dice, credo che il presidente dovrebbe a questo punto premere il bottone su cui c'è scritto reset, ovvero dovrebbe fermare per un momento il procedimento. È animato da questo desiderio di muoversi con grande rapidità, ma prima il supporto che lo circondava e lo seguiva era enorme, e anche per questo motivo forse, dice sempre Romney, Obama ha saltato alcuni passi, alcuni step necessari, ad esempio quello che riguarda l'educare, il coinvolgere, lo spiegare i propri piani, i propri progetti, e cercare a sua volta invece di ascoltare e di comprendere quali sono le prospettive, i programmi, le idee della maggioranza degli americani. Ricorda sempre in questa intervista come lui stesso, che in Massachusetts come governatore ha lavorato a una riforma sanitaria che è un po' il modello poi di quella che sta cercando di utilizzare la Casa Bianca, di adottare la Casa Bianca, e di come ha lavorato in questo progetto in modo veramente bipartisan, coinvolgendo Ted Kennedy, l'ultimo dei Kennedy, il grande uomo della riforma sanitaria in America, il grande vecchio di questa riforma sanitaria. Conclude con una frecciata a Obama e gli dice, beh certo, poi lui aveva detto che essere bipartisan sarebbe stato il suo modo di rinnovare Washington. Credo che questa, la concretizzazione di questo proposito, ancora dobbiamo vederla. Insomma, sono tempi un po' difficili per Barack Obama, che non perde comunque il suo appeal, il suo stile, continua a essere una presenza straordinariamente intensa nel quotidiano degli americani, ne fa di tutti i colori. Pensate che ha trovato perfino il tempo di organizzare un piccolo festival country nel salottino della Casa Bianca. Sentite un po'. Welcome to the White House. Tonight marks the second in a series of that we are using to celebrate the music that's contributed to the life of this nation and chronicled È interessante il modo in cui presenta questa iniziativa, che coinvolge nomi di ottimo livello, Alison Krauss, grandi artisti del country americano. Dice: voglio parlare del country perché il country è una musica distintiva della nostra nazione, che rappresenta una cosa che noi americani, penso, sappiamo fare meglio di chiunque altro. Sarebbe la cosa in questione, sarebbe raccontare. Insomma, riforma, sanità, chiusura Guantanamo, questi i temi su cui seguiremo Obama nelle prossime settimane, in questa lunga estate calda che aspetta il presidente e i suoi avversari, quelli che hanno ricominciato a battezzarlo, come facevano prima che fosse eletto, il solito democratico: tassa e spendi. Could never touch their promise, never meant so much to me. You have been warned, I'm born to be contrary. Backward at school, I wrote from right to left. Teacher never cared for me. Preacher said a prayer for me. God help the girl, she needs all the help she can get. Waiting for his phone call. Oggi abbiamo scelto questo disco nuovissimo, ve lo facciamo sentire, ne sentirete diversi estratti, è una cosa particolare, mi sembra molto adatta tra l'altro all'atmosfera, alla temperatura esterna. Si chiama God Help the Girl ed è in realtà una versione riveduta e corretta di un gruppo anche molto amato in Italia che si chiama Bell and Sebastian. Li riascolteremo tra un pochino, adesso è tempo di notizie. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. Tempo anche di eclisse, no? Esatto, perché la prima notizia che voglio dare in realtà ha una funzione palese, forse anche un po' bieca, cioè quella di lanciare in orbita un piccolo evento della puntata odierna di Jefferson 2, perché tra pochi minuti, a fine puntata, ritroveremo il nostro primo grande eroe, forse, altro che astronauti, dei due mondi da Shanghai, cioè il nostro Paolo. I più affezionati ascoltatori sanno naturalmente di chi stiamo parlando. Ci racconterà tra poco il modo del tutto sui generis con il quale ha visto l'eclisse il nostro Paolo. Per il resto io mi limito a leggere le agenzie che segnalano come la pioggia abbia parzialmente rovinato la festa a migliaia peraltro di abitanti di Shanghai che si sono riversati in strada per vedere quella che è stata definita l'eclissi più lunga del XXI secolo. Insomma, c'è stato un po' di foschia, un po' di nuvolo. Comunque la metropoli cinese, la megalopoli cinese è piombata nel buio intorno alle 9:30 di mattina, erano le 3:35 in Italia, e il buio totale è durato 6 minuti, quindi veramente un'eclissi infinita. E insomma, poi Paolo ci racconterà i dettagli in cronaca di questo evento. Alberghi pieni, no? Esatto, a suo modo epocale. Nel frattempo credo che l'eclissi sia comunque finita, perché si è spostata verso il Giappone ed è tramontata definitivamente nel Pacifico meridionale. Dunque, Honduras, tra l'altro, a proposito di annunci, domani dovremmo avere un interessante collegamento riguardante la situazione in Honduras, che contraddicendo le aspettative a un certo punto si è insabbiata, si è fermata, si è bloccata. Soprattutto la crisi non è tutt'altro che risolta, e non si sa esattamente quale versante a questo punto potrebbe prendere. Come sapete c'è un presidente, un legittimo presidente estromesso, che si chiama Manuel Zelaya, Zelaya e un presidente considerato rappresentante dei golpisti che hanno cacciato via Zelaya, che si chiama Roberto Micheletti, attualmente al potere in Honduras, e una comunità internazionale che, visto che finora comunque il golpe non ha scatenato soverchie reazioni dal punto di vista della violenza, esita a intervenire con mano troppo pesante nel timore che poi la cosa scateni un effetto a catena. Però di fatto alcune novità ci sono. Il presidente esiliato Zelaya infatti ha mandato una lettera a Barack Obama, una lettera che conterrebbe l'elenco dei cattivi, se possiamo dire così, coloro che avrebbero progettato e messo in atto il golpe nel paese. Chiede a Obama di intervenire, pretende un intervento americano. Gli americani in Centro America, come si sa, vanno coi piedi di piombo, perché il passato è testimone di guai molto grossi. Zelaya dice deve intervenire Obama contro coloro che hanno cospirato direttamente per attuare il colpo di Stato. Hillary Clinton ha avuto un colloquio telefonico invece con Micheletti, ha definito il colloquio che ha avuto molto fermo. La Clinton avrebbe detto a Micheletti che gli Stati Uniti sospenderanno gli aiuti all'Honduras se i golpisti non accettano il piano di mediazione del presidente di Costa Rica Oscar Arias. Altre novità, come vi ho già detto, domani. E invece, per tornare in Cina, c'è una brutta storia, purtroppo finita in tragedia, che riguarda un impianto appunto cinese che è fornitore dell'Apple di Steve Jobs. Perché cos'è successo? C'è stata la sparizione qualche giorno fa di un segretissimo, così è definito dalle agenzie, prototipo di iPhone, che ha spinto purtroppo al suicidio il giovane operaio accusato di questo smarrimento. L'episodio risale allo scorso 16 luglio, quindi pochissimi giorni fa, e c'è già un'indagine in corso, perché pare che a spingere al suicidio siano stati addirittura gli addetti alla sicurezza della fabbrica, che addirittura secondo le fonti e secondo alcuni testimoni sono andati a casa dell'operaio, lo avrebbero sequestrato, insomma malmenato, e quindi insomma c'è un giallo anche dietro a questa terribile storia. Il titolare dell'impianto è naturalmente sotto inchiesta, ammette gli interrogatori e le perquisizioni, però per il momento nega di aver fatto ricorso a violenza. Il suicida Sun Dianyong aveva 25 anni e sembrava aver coronato il suo sogno, che purtroppo è finito in tragedia. Va bene, adesso le notizie di borsa, poi torniamo sull'argomento che ieri ha suscitato un dibattito piuttosto caldo, ovvero la crisi del turismo italiano agli occhi dei turisti, della grande clientela del lontano Oriente. E poi, come vi ha già detto Emiliano, in chiusura arriva Paolo. Allow me to rub. Tell me cause of the day, let me wash them away, all the hideous weight. Try you gently, dress you tenderly, and ready for bed. You're asleep, still standing up, I like you, not made up. You've got a nice face, it is crumpled and creased from the way that you sleep. That you casually keep. Steal from me my underwear. You wear it better than me. Wear it better than me. Go all day, no false alarm. To charm them all. No worker, labor-free shirker, management lady, government spy. Long leg girl from the west. You came onto the scene like an energetic beam. You have learnt, all the boys have been bent by your mesmerizing gaze. Waltzing into situations, faking, getting a raise, getting a writing home to tell your folks about the silly ways are nagging at you. What's a girl supposed to do when a city closes in? Noise from the lady upstairs, she's as deaf as a post, as transparent as a ray. Boys accusing, trouble's brewing, but you take it all in. But you take it all in. Ride the wave of their affection, look behind the gaze. And confessions of love. potere delle plastiche. Una televisione americana sta intervistando William Dafoe, il noto attore, ben conosciuto anche in Italia. Siamo un ragazzino di 28 anni, non so. Evidentemente riescono veramente a fare miracoli a colpi di bisturi. Invece un miracolo sembra sia necessario, magari un miracolo è una parola grossa, ma insomma un impegno molto serio pare proprio sia necessario, sia richiesto per raddrizzare una questione che si è messa piuttosto male negli ultimi giorni. Parliamo di turismo in Italia, mettiamo al centro poi dell'osservazione Roma, la capitale, e alcune cose che sono successe a Roma, magari piccole storie, ma che hanno destato echi inattesi e tutt'altro che piacevoli. Se è vero che il segretario generale della CGIL, Guglielmo Epifani, ha parlato della vicenda dei due turisti giapponesi che si sono visti presentare un conto da 700 euro in un ristorante romano, una storia che poi piano piano ha camminato, ha messo le gambe, come si dice, ed è diventato un piccolo scandalo rimandato dalla grande stampa giapponese, quella che vende milioni di copie tutti i giorni e che ha avvisato i suoi lettori di stare bene attenti e forse anche di cominciare a considerare l'idea di girare alla larga da un paese che non offre servizi e garanzie turistiche come dovrebbe. Bene, Epifani parla di colpo inferto alla città di Roma, danno incalcolabile per milioni di persone. Bisogna metterci un rimedio, ma forse un rimedio non solo formale, ma anche, se me la passate, contenutistico, nel senso che poi bisogna anche affrontare le cose per quello che sono, chi abita a Roma, chi conosce Roma, e alcuni usi e costumi, soprattutto di snodi essenziali e importanti della circolazione turistica a Roma, leggi l'aeroporto, le stazioni, alcuni luoghi deputati del turismo romano, sa benissimo che non tutto va come dovrebbe andare, e truffe forse è una parola grossa, ma tante piccole disfunzioni che poi potrebbero allargarsi a raggiera nel discorso, parlando appunto del rapporto qualità-prezzi e della qualità stessa dei servizi. Ieri ne abbiamo parlato con Andrea Giannetti di Assotravel, l'associazione degli agenti di viaggio, e nella veste, diciamo, un po' dell'accusatore ci ha accompagnato Saro Capozzo, il nostro corrispondente da Shanghai, che ci ha testimoniato di una insoddisfazione strisciante ma crescente nei confronti della qualità del turismo Italia. Oggi abbiamo in collegamento, e lo ringraziamo molto per questo, Mauro Cutrufo, che è vice sindaco di Roma con delega al turismo, che per l'appunto sembra proprio la persona giusta a muoversi sull'argomento in questione. Si sta muovendo, c'è già stata una iniziativa tangibile che parla di codice di comportamento etico, ma ora sarà lui stesso a dare testimonianza, e poi di una iniziativa che dovrebbe portarlo anche nel lontano Oriente, magari per avere un chiarimento e far attivare quel rilancio di cui forse l'intera questione in questo momento ha bisogno. Buon pomeriggio, Cutrufo, e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Allora, prima, io vorrei partire facendo l'avvocato del diavolo da un'agenzia uscita poco fa che sostiene che il famoso conto Galeotto, che poi fosse solo quello, secondo me si potrebbe, come dire, circoscrivere la notizia, ma che il famoso conto Galeotto non avrebbe poi provocato il castigo di cui da più parti, non ultimo il ministro del turismo Brambilla, si è parlato, ovvero il locale non ha subito una punizione, tra virgolette, esemplare per quella storia poco edificante. In realtà pare che il locale sia chiuso semplicemente per questioni di ASL. Le risulta questo? No, è falso. Nel senso che sì, è chiuso per vicende sanitarie e per il fatto che con la denuncia dei due turisti si sono precipitati lì i vigili urbani e i vigili urbani hanno chiamato i carabinieri dei NAS. Tra le altre cose, hanno riscontrato nei frigoriferi e nella Polizia Generale del locale dei difetti enormi e pertanto lo hanno chiuso. Questo è vero. Però, diciamo, le due vicende sono un po' parallele, non un po' svincolate. Mentre la vicenda della truffa, cioè del reato, e la vicenda del furto, perché la denuncia dei due querelanti, i due giapponesi, che è all'attenzione di un sottotitolo procuratore della Repubblica di Roma, riguarda due reati, quello di truffa e quello di furto. La parte del furto è relativa alla richiesta coatta di mancia. Certo. Per cui io non vorrei stare nei panni di ristoratore, perché chiaramente questi due si sono querelati, hanno parlato con le autorità, i vigili urbani hanno sentito le denunce, eccetera eccetera. Ci sarà è in corso un procedimento di carattere penale. Questa uscita del ristoratore è solo un'uscita furbesca per dire ma tutto sommato che ho fatto, insomma, sono sì, lui dice testuali parole: c'è stato probabilmente un errore della stampa, al nostro locale non è mai stata notificata alcuna denuncia per truffa, non siamo chiusi per quel motivo, ma perché un ispettore dell'ASL ha ravvisato alcune irregolarità. Fa il pesce in barile, insomma. Fa il pesce in barile, esattamente. Chissà quanto lo venderebbe questo pesce. Certo. Senta, invece, come dicevamo nell'introduzione, però si sta cercando di mettere lei mano, deve consentire di poter dire certo. Perché certo. Lei giustamente ha citato Epifani, certo. Io le potrei citare altri. Certo. Io, come sempre, essendo un uomo molto concreto, dico solo i fatti. Certo. Sono 15 anni che sono accadute 182 vicende come questa, anzi, da quando ci siamo noi, soprattutto è accaduto solo questa, le altre 182 sono accadute dal 99 fino ad oggi. Anzi, fino al 2008, giugno del 2008, e ne sono successe di belle, una birra a 1000 euro, cioè, tante. Sì, ma chi legge le cronache romane, purtroppo ne è bene tutto. Mi fanno ridere questi che fanno questi interventi, hanno governato 15 anni la capitale e non hanno fatto nulla, come al contrario ci sta muovendo noi, per finalmente, dal punto di vista della sicurezza e non soltanto in questo campo del turismo, stia facendo delle cose trascinare la questione in una polemica politica sarebbe il modo più sbagliato. No, ma non è certo quello il piano del discorso. Il problema esiste ed è un problema po' anche di costume. D'accordo. Contro il costume, bene. Io ho ritenuto di finalmente far occupare l'amministrazione di turismo, perché nessuno prima si è occupato di turismo. Quello che veniva a Roma veniva perché Roma è Roma. Però Roma era prima fra le mete europee negli anni Ottanta, era terza, perché con la fondazione dei turismi Londra e Parigi hanno quintuplicato le presenze Londra rispetto a Roma e raddoppiato le presenze a Parigi rispetto a Roma, immaginando che Parigi è 11 volte più piccola di Roma e che Londra e Parigi nel loro insieme non hanno lontanamente la raccolta di beni culturali inventariati, perché Roma è quella che ne possiede di più di tutto il mondo. Allora, dette queste cose, per inquadrare bene i periodi storici, noi abbiamo fatto una programmazione di immediata attuazione, e l'ho presentata alla stampa proprio 10 giorni fa, e una programmazione di medio e lungo periodo che si chiama Secondo Polo Turistico della Capitale. Per ciò che riguarda il malcostume, sono mesi che stiamo lavorando con le categorie a nuovi regolamenti, sia per quello che riguarda i tassisti, che vengono controllati molto di più che in precedenza, quando era stata addirittura abolita la commissione che deve dare le sanzioni, e noi l'abbiamo rimessa in piedi e sta lavorando, ovviamente anche con le proteste di chi è interessato che non lavori, e ci sono 6.000 pratiche da esaminare arretrate di denunce fatte nel corso di 6-7 anni a questo tipo di categoria. Beh, se ci sono 6.000 denunce sullo specifico, è come dire, quel giornale giapponese purtroppo, come dire, ha fatto il suo dovere a un certo allora vedete che il problema è un problema che va risolto con decisione e sul quale noi ormai abbiamo messo la prua, come dicono i marinai. Il problema è appunto da sradicare con radici lunghe. Ma è così difficile, per esempio, far sì che in un aeroporto come quello di Roma, come capita a New York, come capita a Londra, un turista magari non particolarmente agguerrito non finisca in quei trappoloni che chiunque conosca i nostrani aeroporti lo aspettano all'uscita? Hanno, insieme con la polizia, perché parliamo di persone difficili, parliamo di una cosa più seria di quella che sembra, parliamo di una categoria fatta di 7.000 persone, all'interno della quale c'è qualche centinaio di persone che sono vicini alla delinquenza abituale. e che vanno isolati. Noi vogliamo dirlo da Campidoglio con grande chiarezza, perché prima di dirlo io adesso a voi, abbiamo visto le categorie, abbiamo parlato, abbiamo approfondito, abbiamo parlato col comandante dei Vigili Urbani, col vice che stamattina era presente a questo incontro dove si è parlato di questo decalogo del comportamento, eccetera eccetera. Insomma, questo fenomeno del tassista diciamo così un po' leggero, un po' allegro, addirittura alle volte ben di più di quello che ho detto dal punto di vista degli aggettivi, va stroncato, va stroncato. E questo lo possiamo fare con l'ausilio di questa commissione, con l'ausilio della categoria che chiede aiuto. I tassisti romani sono onesti, sono persone che lavorano, certo, e sanno che un turista per loro principalmente è un bene prezioso, e quindi vogliono che ritorna. Il tassista romano è famoso all'Alberto Sordi, quello che parla continuamente, certo, dà consigli, eccetera, certo, eccetera. Certo. Dopodiché c'è un manipolo, certo, che rende questa categoria più debole, perché proprio mi dicono e mi riferiscono che li minacciano a quelli, diciamo così, più deboli, o meglio a quelli come me e come lei, alle persone per bene che hanno tutto da perdere quando hanno a che fare con una persona che non è per bene, per esserci molto chiari. Senta Cutrufo, anche lei andrà in aeroporto per prendere un aereo per il Giappone, so, in un prossimo futuro su questo dunque, argomento. Ma questa è già una cosa programmata, perché noi i nostri rapporti con Tokyo e col Giappone sono storici e sono molto buoni. Io ho parlato già con l'ambasciatore, abbiamo assolutamente intenzione di collaborare. Ci hanno invitato a Tokyo, verrà pure il Presidente della Repubblica, addirittura c'è il quadrimestre italiano a Tokyo a partire da settembre, e dentro il quadrimestre italiano la settimana per Roma, e in quella settimana faremo vedere le eccellenze di Roma, portiamo con noi il Teatro dell'Opera, portiamo con noi una serie di reperti dei musei capitolini, e quindi i giapponesi che già mi sono venuti a trovare a livello di giornali, i giapponesi sono entusiasti del progetto del secondo volo turistico. Mi hanno chiesto di portare dei Deprians e dei libri che raccontano di questa nuova progettualità di Roma sui turismi, in modo che incentivino i giapponesi al contrario a venire a Roma. Poi devo dire che abbiamo la totale collaborazione dei ristoratori, dei pubblici esercizi, della Federalberghi. La proposta di fare il codice etico viene da Federalberghi. Stamattina io l'ho sposata, era già stata fatta in un altro ambito, in un altro incontro. Noi faremo questa campagna di grande comunicazione verso chi accoglie a Roma a partire da settembre, ci investe Campidoglio su questa cosa, ci scommette insieme con i tassisti, perché vorremmo testimonial tassisti, testimonial ristoratori, magari su un 4x3 che accolgono un turista giapponese, eccetera eccetera. Insomma, a fianco a quella che io dico essere un po' due giri di vite, ci vuole una comunicazione positiva, perché Roma ha 11.000 esercizi, se uno sbaglia, certo, gli altri 10.999, certo, perché certo, dovrebbero essere penalizzati? Va bene, Stremo la ringrazio per questa informazione e anche per questa visione estremamente lucida della situazione. Mauro Cutrufo, vice sindaco di Roma con delega al turismo e a questo punto, come dire, gestore, pianificatore di una operazione di restyling, anche di rilancio, che sembra assolutamente davvero indispensabile. Bene, bene, non si potrebbe dire altrimenti quando, quanti ricordi, quante ne abbiamo passate insieme, soprattutto quante ne ha passate lui e noi vi abbiamo raccontato. Viene dal profondo, dal lungo ormai passato di Jefferson e si chiama Paolo. Eh sì, Paolo, 36 anni, veneziano, discendente alla lontana, lontanissima da Marco Polo. Più o meno la sua saga qui a Jefferson è cominciata 2 anni fa. Certo. Una innocente, interessante vacanza in Cina, lui ci chiamò per chiedere dei consigli per evitare qualche avvelenamento, qualche intossicazione da bevande o da carni sospette. Poi invece la vacanza è andata molto bene, ha scoperto l'amore, ha trovato l'amore a Shanghai e quindi ha lasciato tutto, armi, bagagli, è partito per Shanghai per un periodo anche di tempo. E ne ha passate di cotte di crude. Poi ha ricucito e insomma tra un lavoro e l'altro si sta barcamenando e prosegue questa storia amorosa con Xiao Xuan, ragazza 10 anni più giovane di lui. Anche qui tra alti e bassi noi abbiamo seguito tutta l'epopea del nostro Paolo. L'abbiamo seguita ed è stato un po' un avvicinare, in un certo senso rendere familiare quasi attraverso gli occhi e le avventure di questo amico, se possiamo dire così, avvicinare la Cina, quello che ti può capitare, come può capitare a ciascuno di noi, all'esperienza, alla conoscenza, alla voglia di sapere di chi lo ha apprezzato, magari l'ha anche preso in giro, perché poi Paolo è un tipo piuttosto formidabile, lo capirete se non lo conoscete, se lo conoscete lo riconoscerete, invece lo capirete quando entra in rapporto naturalmente con l'eclissi. Questa è l'eclissi secondo Paolo. Anche se ero a Shanghai, ma non beccate un po' la persona meno indicata, perché io a tale ora stavo beatamente ancora dormendo. So che un connazionale con cui ho parlato oggi al telefono, ovviamente anche lui a Shanghai, che l'ha vista, mi ha detto che è stata una roba bella, cioè una cosa, un uomo di 50 anni, insomma un cinquantenne, lui ne ha viste diverse di eclissi nel passato, anche quando era giovane, ma mi ha detto come questa non ne ricorda, ha detto, cioè per un paio di minuti mi ha detto il cielo si è proprio oscurato, cioè sembrava quasi notte, insomma. Ma a che ora era l'appuntamento con l'eclissi? Ma qui, che io sappia, ho letto alle 8 e 23 minuti, questa è l'ora che io ho letto. 8 non del mattino? Non ho, sì, poi la giornata oggi non è delle più, almeno nel tarda mattinata quando mi sono alzato io non è delle migliori, oggi è anche piovuto, il cielo è sempre stato, almeno dalla tarda mattinata in poi, sempre nuvoloso. Mattinata presto non so come fosse, ma le previsioni lo davano per non dei migliori per l'eclissi. Poi ripeto, io non l'ho vista, quindi non so, però almeno stando a questa testimonianza mi sembra che sia stata, insomma, è stata molto bella. Ma insomma, Paolo, non potevi metterti la sveglia, puntare la sveglia e svegliarti per l'avvenimento, insomma non te ne è fregato nulla dell'eclissi? No, ma stamattina dovevo avere una lezione di italiano alle 8:30, il ragazzo in questione ieri verso mezzanotte mi ha mandato un sms chiedendomi se potevo spostare a domani mattina. Probabilmente voleva guardarsi l'eclissi, esatto, vedi che voleva guardarsi, sì, l'eclissi, ecco, pure lui. Ecco, allora io ho pensato, visto che la lezione è stata spostata, ne approfitto per dormire. Non sono mai stato un grande appassionato di queste cose. Insomma, se c'ero dormivo, perché in fondo poi le eclissi sono tutte uguali, vista una le hai viste tutte. Ma a che ora si sveglia Paolo? Questo è un mistero, però se fa lezioni a tarda sera, chi lo sa. Vabbè, comunque oggi se l'è presa comoda, insomma, giornata sera, di semi vacanza. Va bene, come vedete il marchio, l'imprendi, lo stile, se possiamo così dire, di Paolo è inconfondibile. È inconfondibile. Domani vi preannunciamo un'ampia parentesi sul grande mondo amoroso di Paolo Annesi. I suoceri. E connessi, ci sono dei suoceri all'orizzonte. Parliamo di lavoro, che invece è un po' sempre il tasto dolente. Diciamo che la situazione è più o meno stazionaria, nel senso che le lezioni proseguono, sia quelle di italiano che quelle di tennis, le persone più o meno sono quelle. Ogni tanto una va e una arriva. 3 ore fa ho incontrato una ragazza interessata, una ragazza di Singapore, arrivata qui da poco, interessata alle lezioni di italiano perché vorrebbe in futuro trasferirsi in Italia e tra l'altro interessata anche alle lezioni di tennis, quindi della serie due piccioni con una fava. Però in genere il numero più o meno sempre attorno alle 9-10 persone, da dividere metà italiano, metà tennis. In questo periodo sto dando, si vanno abbastanza quelli di tennis, che la cosa da una parte mi fa anche piacere, dall'altra però preferirei che fossero un po' più le lezioni di italiano che quelle di tennis, perché il tennis mi porta, cioè un paio di ore a tennis con le temperature che ci sono in questo periodo mi sfiancano un po'. Quanti gradi fanno a Shanghai in media? ma si viaggia sopra i 30 di sicuro, ma è l'umidità quella che è veramente sfiancante qua. Ma invece per quel che riguarda i colloqui, diciamo i lavori con la L maiuscola, come procede? È da un po' che non ho colloqui, cose. Il tempo passa e la stanchezza psicologica comincia un po' a farsi sentire, perché appunto io, con le lezioni è qualcosa che ovviamente devo tenere, perché ovviamente sono l'unica fonte di entrate, di guadagni seppur limitati che ho, però a lungo andare questo non è quello che posso fare in eterno, e comincia un po' a farsi sentire. Infatti adesso comincio un po' ad accusare i segni del tempo. Un po' demotivato è il nostro emigrante del cuore. Un finale malinconico di questa prima parte, e poi domani c'è una riscossa. Va bene, torna domani Paolo per i suoi innumerevoli fan qui a Jefferson 2. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia Valerio Occhetti a Roma, Fabio Cantadori a Milano. La mail è Jefferson2 e Radio24.it. Le pagine Facebook sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24. Express yourself. Replica a mezzanotte diretta. Vi aspettiamo dopo le 4 qui da Radio 24. State bene.